GR Europa. First, we need to maintain the pace of economic reform to support the rebalancing of the European economy. Quest'anno sarà un test essenziale per la credibilità dell'UE e dell'Eurozona, lo ha affermato il commissario agli affari economici Olli Rehn di fronte al Parlamento europeo riunito a Bruxelles. Rehn ha insistito sull'esigenza di rimettere l'economia europea sui binari giusti, seguendo insieme solidarietà e responsabilità. Intanto si avvicina al vertice UE che dovrà definire il bilancio 2013-2020. A novembre fallì la prima tornata di colloqui sul nuovo bilancio europeo da circa 1.000 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Il 7-8 febbraio, invece, le chance di riuscita ci sono, sostiene il ministro alle politiche agricole Catania, uno dei capi negoziatori italiani. L'ultima bozza del presidente del Consiglio europeo Van Rompuy contiene limature che, non riguardando coesione e agricoltura, probabilmente non incontreranno il veto italiano. La partita però si gioca a 27 in un periodo economico senza precedenti e con l'Europa profondamente divisa, prima ancora che sui riparti di spesa tra chi vuole tagliare le disponibilità dell'UE, come Germania e Regno Unito, e chi invece vorrebbe denari in cassa. Del secondo gruppo fa parte l'Italia, che, fermo restando il principio che i fondi si versano in base al PIL, vorrebbe però far entrare nella partita futura i crediti del passato. Nel 2011 abbiamo versato 6 miliardi in più di quanto abbiamo ricevuto dall'Europa, ma era proprio mentre il paese capiva di aver bisogno di una cura da cavallo. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Nell'autunno del 2011 il governo Berlusconi ha deciso di non rispettare più gli impegni su riforme e risanamento dei conti presi con lui. Il risultato, ha proseguito Olli Rehn, è stato il prosciugarsi dei finanziamenti al paese con lo schizzare dello spread. Il governo italiano lascerà un disegno di legge a futura memoria per far sì che in futuro tutti gli italiani temporaneamente all'estero possano votare. Così Anna Maria Cancellieri, ministro dell'Interno, parlando con i giornalisti a Bruxelles a margine della conferenza europea sulla lotta contro la radicalizzazione, ha spiegato che le norme attuali non possono essere modificate perché avremmo messo a repentaglio la tenuta stessa delle elezioni. L'Europa accelera sul fronte dell'innovazione con un maxi finanziamento, un record, a due progetti scientifici rivoluzionari che coinvolgono anche l'Italia al servizio. Un finanziamento record, 1 miliardo di euro su 10 anni per due progetti altamente innovativi. La Commissione europea punta su grafene e cervello umano, questi i nomi dei due progetti. Grafene, che ha tra gli enti coordinatori anche il CNR italiano, intende mettere a punto le prime applicazioni del materiale più sottile al mondo, destinato a raccogliere l'eredità del silicio. Diretto da Jari Kinaret dell'Università svedese di Chalmers, il progetto coinvolge complessivamente 126 gruppi di ricerca in 17 paesi. Compito dell'Italia sarà guidare le attività relative alle possibili applicazioni del grafene per l'energia, ad esempio con celle fotovoltaiche più efficienti, e per nuovi materiali, quali quelli al servizio dell'ingegneria dei tessuti. Cervello umano punta invece a costruire un supercomputer di nuova generazione che sappia imitare il cervello dell'uomo sotto ogni aspetto, sia logico che emotivo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La crisi in Siria peggiora di giorno in giorno, causando enormi sofferenze alle popolazioni. Per questo la Commissione UE nel 2013 è pronta a sborsare 100 milioni di euro in favore dell'assistenza sanitaria. Così l'annuncio di Kristalina Georgieva, commissario agli aiuti umanitari dell'Unione. E infine una notizia: è stata rinviata al prossimo 18 febbraio la scadenza per partecipare al premio Charlemagne 2013 per la gioventù, un premio organizzato ogni anno dal Parlamento europeo. I ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 30 anni sono invitati a presentare progetti che mirano a promuovere la comprensione reciproca tra i popoli europei. Tutti i dettagli li trovate sul sito di radio24.it. Bene, con questo è tutto. Un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Pietro Lacorte in regia. GR Europa torna domani alle 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.